Questo speriamo ci porterà ad avere attorno alle 500, magari anche qualcosa in più, 500 iscrizioni quest'anno, e quindi è un numero già importante, ma al tempo stesso non così tanto statisticamente parlando per poter applicare le categorie, per esempio, che vengono utilizzate in altri concorsi. Poi noi abbiamo chiaramente sempre avuto un po' una filosofia che è quella di cercare comunque di privilegiare la possibilità di iscriversi soprattutto a quegli stili che stili in realtà non sono, che sono poi tutte quelle che facciamo noi in Italia, insomma, sostanzialmente. Quindi è un concorso che premia le birre italiane, è un concorso a cui vengono a giudicare giudici stranieri e dobbiamo in qualche modo cercare di valorizzare comunque le nostre peculiarità, perché un giudice abituato, che so, a giudicare all'European Beer Stars o che so, alla World Beer Cup, ha un atteggiamento e comunque un'attenzione, per esempio, che so, sull'aderenza agli stili che è diversa rispetto alla nostra, questo è evidente. Quindi quest'anno rispetto allo scorso anno abbiamo apportato qualche modifica, soprattutto nelle categorie, nella macro categoria delle IPA, Double IPA, per intenderci, che lo scorso anno era una di quelle più partecipate e che ha portato anche al fattaccio, tra virgolette, della non premiazione del primo posto, e quindi lì abbiamo fatto un po' di distinguo perché effettivamente in Italia si producono tante varianti, quindi era giusto anche cercare di mettere un po' l'accento su questa variabilità. E la cosa, secondo me, comunque in generale più interessante è questo prefisso Italian che abbiamo Ecco, messo in alcune categorie. stavo appunto venendo a questo, cioè il prefisso Italian che ha scatenato anche un pochino di polemiche in rete, ma c'è un Italian style, secondo te, o comunque c'è un modo italiano di affrontare certi fondamentali della birra? Pare che tra l'altro nelle interviste di vari giornalisti stranieri, nonché di operatori italiani, l'abbiamo sentito anche poco fa da Riccardo Franzosi, insomma, il fatto che il birraio italiano abbia una certa libertà di espressione rispetto ad altri che hanno tradizioni più lunghe, insomma, la dica lunga, insomma, sulla fantasia italiana, no? Sulla libertà, o no? Certamente sì. Allora, noi tutti quanti noi che abbiamo iniziato già da qualche anno a fare questo lavoro, a seguire la birra artigianale in Italia, tutti quelli che sono implicati, diciamo, nel nostro movimento, fra le prime cose che dicono a quello che magari non conosce il nostro fenomeno, si dice: guarda, noi abbiamo messo anche nella birra questa nostra caratteristica italiana, che è quella della, chiaramente della ricerca del gusto buono, diciamo, e anche un po' del bello che non tutti hanno in giro per il mondo, ed è vero sicuramente, ma al tempo stesso anche un po' la fantasia, che poi si lega anche al fatto che comunque per noi, che so, il legame al territorio, cosa alla quale io non tengo particolarmente, ma che comunque fa parte certamente dei tanti tentativi che i birrifici, i birrai fanno in Italia, è un qualcosa di assolutamente unico per certi aspetti. Poi è chiaro che, vedi, qua è una mia opinione personale, quindi non voglio per forza coinvolgere anche un birrai in questo tipo di ragionamento, però mi piace esprimermela questa opinione, esprimerla con te. Il discorso è questo, cioè noi certamente abbiamo una capacità di reinterpretare tante cose, comprese gli stili, dall'altro è un'incapacità di star dentro dei legacci, insomma. E quindi c'è la Siamo sua parte, ragazzacci, no? come, sì, cioè, voglio dire, cioè, come dire, è un discorso che si può fare in entrambe le direzioni, io non ho assolutamente niente contro chi magari segue in modo assolutamente preciso i dettami di uno stile. È anche vero che scrittori e opinionisti ben più importanti di noi parlano comunque di grossa difficoltà individuale.